sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Ritornai, ma si sente? Sì, sì. Ritornai a Sanremo da solista nel 95 e ricordo che mi venne spontaneo fare un gesto che stasera voglio ripetere. Maestro, metti pure un accordo che vuoi. O meglio che c'è. Che cos'è? Non capì all'istante cosa mai volesse fare Albano sul palco del teatro Ariston. Io pensavo che si inginocchiasse e baciasse il suolo calpestato da millanta artisti nel corso degli anni. Pensavo che facesse qualcosa che assomiglia, non so, a una preghiera verso la Mecca, in senso di un momento di conciliazione fra questo rappresentante del meridione d'Italia. Ma in realtà rimase lì, bloccato probabilmente, da una specie di colpo della strega. E così, per sdrammatizzare quell'atto, cominciò a fare delle flessioni molto semplici, che la pancia, toccando già il terreno, con le sue braccine, non faceva che un'escursione di un centimetro scarso. E così Albano consacrò con un gesto rituale il suo ritorno a Sanremo, dopo decenni in cui non più lo vide avvinto dalla donna che in fondo rappresenta il binomio indissolubile al di là dei turbamenti, delle tempeste, delle separazioni, dei litigi in tribunale, della sua esistenza, Romina. Albano e Romina sono riapparsi a Sanremo. Ora, questa mattina non voglio fare valutazioni di nessun tipo, non voglio collazionare quello che è stato il gradimento di pubblico di Sanremo. Sono totalmente fuori dal mondo in questo momento. Sono staccato assieme a Giuseppe Sanzonna, uomo del Sud, uomo della Puglia, come uomo della Puglia Albano, per valutare quale segno profetico noi dobbiamo dare a questo fantastico ritorno. Albano e Romina tornano odiandosi schifosamente sul palco di Sanremo in una sorta di rituale che li vorrebbe nuovamente avvinti da un eterno e imperituro amore. La felicità è prendersi per mano. No. Prendetevi per mano. Tu prendi per mano lei, io prendo per mano te. Via. Guarda, datevi un bacino, dai. Un bacino. Dai, datevi un bacino, dai. Così davanti dai, a tutti. Bacino, dai, un bacino. Dai, un bacino, dai. Bacio, bacio, bacio. Dai. Ci vuole, dai, un bacino. Così, davanti a tutti? Sì, sì, dai. Ma dai. Sai, io ho il senso del pudore. Nemmeno alle feste di matrimonio, nei paesi più remoti delle zone dei trulli, ancora si fa bacio, bacio, bacio. Ma perlomeno allora la sposa sdegnosa alla fine porge la guancia turgida alle labbra fameliche dello sposo. Ma Romina era schifata dal fatto che gli si avvicinasse Albano con la sua fiatella che sapeva di vino delle Puglie, probabilmente. Giuseppe Sanzonna, tu hai visto questa scena? Cerca di darmi una lettura vista dalla latitudine esatta, cioè dall'uomo delle Puglie che guarda questo vergognoso ritorno dell'uomo delle Puglie che deve mimicamente risceneggiare un amore che non c'è più, che è scomparso, putrefatto, morto. Infatti Albano ha cercato di darle una testata, se noti, c'è un gesto quasi a fra Tyson. Che è tipico dalle vostre parti, no, prendere le donne sì, a testate. Sì, cioè, certo. Anche quello, ma anche le flessioni sono molto da sagra strapaesana, da Albero della Cuccagna, da Mastro Don Gesualdo di Cellino San Marco, che mostra il virilismo, la possibilità. Cioè, nelle feste pugliesi uno, per fare che non è ubriaco, fa le flessioni. Tutto intorno a battimani, vedi, ancora fai? Riesce, guarda lo zio che ancora riesce a fare le flessioni. Che è un mimare naturalmente osceno dell'atto quello sessuale che sappiamo, nella sì. Posizione del missionario. C'è il rituale, sì, solo quello è consentito. Quindi quello, lui vorrebbe fare il messaggio che ha mandato a voi uomini del Sud, io ancora gli ancora, do di brutto. Ancora sì, ancora ce la sono, faccio. Ancora sono qui. La forza dei miei lombi è ancora intatta. Ma anche l'ugola, se siete, è una protesi fallica, questa, è un canto fallico quello che eleva al cielo, insomma, con a un certo punto Romina dirà: quest'uomo più invecchia più ce l'ha forte, quando agli altri di sotto li si ammoscia, l'ha detto però. Vabbè, questo adesso è una nostra, è un nostro inferire. No, parla grave, la voce. Certo, la voce appunto si eleva con, su questa, quindi, diciamo, strada meravigliosa. Quindi nel patto, nel protocollo d'intesa che avevano di ritornare a Sanremo, c'era lei che vantasse la virilità di Albano. Certo, cioè poi si fa anche questo gesto da moglie di togliersi quel papillon da maître con cui si è presentato, appunto, da grande sala di matrimonio meridionale. E butta la battuta, quando dice: visto quanto è brava, cioè un atto di sottomissione, come l'uomo che torna dai campi, si sa sfilare i calzini con i piedi puzzolenti, si fa portare il pitale dalla donna, un gesto di sottomissione. Pitale non c'è più da tanti anni, però comunque sì, rimane nella memoria. Nel protocollo d'intesa, era nel protocollo d'intesa. Comunque un bacino si può dare. Si può dare. One. No, non me l'hai dato il bacino. Senti, ditemi la vostra emozione di tornare qua dopo 24 anni. Beh, io spero che non ne passino altri 24, se no non ce la farò più a salire qui. Neanche noi. Secondo me è il suo miglior festival. Perché? Perché tutte le altre volte che arrivava, che veniva qui, aveva sempre qualche cosa da dire, aveva sempre qualcosa da lamentarsi, aveva paura della gara, oppure sentiva, non la pensava. La gara. Adesso, finalmente, siccome non c'è gara, sta da Dio, visto? Vero? Anzi. Sì, le canzoni... Vedi, però, noi faremo in questa puntata un excursus di tutta quella partenogenesi della coppia Albano-Romina, non è che nasce così per caso, ma abbiamo visto che dopo decenni però i ruoli rimangono ben definiti. Lui parla di lei come di una persona estranea, come di un oggetto della sua vita. Vedi, in fondo per lei è il miglior festival, perché sta zitta, perché non parla. Sì, sì, è il recupero della moglie petulante avuta a fianco, e in questo diventano lo specimen metafisico della coppia italiana, che appunto si riflette in questo cocoon eterno che è Sanremo, che è un paese, questo è un paese per vecchi, appunto. Cioè, questo è il... Quindi, se vogliamo questa mattina fare un'analisi profonda di quello che è il punctum, è il luogo emotivo che doveva passare attraverso questo Sanremo, è la glorificazione dell'eternità della famiglia. Certo, vabbè, in questo appunto Albano. Ma io ti ricordo, c'era un film di Jerry Calà, Vado a vivere da solo, in cui lui aveva in camera il poster di Albano e Romina e detestava Albano, tirava le freccette ed idolatrava come una Madonna Romina, quindi già allora c'era questo. Beh, perché sai, Romina, anch'io me la ricordo, nei primi turgori adolescenziali del lancinante sfinimento autoerotico, l'immagine che più ricordo, a cui devo la calata di Diottrie, era Romina nuda, inchiodata in una specie di luogo del supplizio, in un suo primo film, in cui era... Bellissimo, del grande Jess Franco, dove Jack Palance la prendeva a nerbate sulla candida. Veniva frustata, una cosa a sadomaso. Prima di arrivare al grande... Nasce come della... vittima sadomaso, esatto. Anticipa le sfumature di grigio e oggi rappresenta questa placida, in fondo anche bella, con un suo appeal, fra i due quella che si conserva meglio è lei in assoluto. Sì, sì, esteticamente sì, ha questa aria da signora hippie appunto fluttuante fra Los Angeles. Ma con un suo fascino, ancora vestita di bianco, certo. Lui sempre uguale. Sì, ricordi gli occhiali all'Albano, si diceva, sempre uguale, con la montatura di ferro orrenda rettangolare, gli occhialetti. Da Schubert proto-pugliese. E diciamo, poi diremo perché, però mettiamo l'elemento rafforzativo. Per dare una circostanza additiva alla glorificazione di questa coppia che viene santificata a questo punto, sale sugli altari come il segno dell'eternità fittizia, finta, si schifano, non si vogliono nemmeno toccare la mano, nemmeno baciare, probabilmente tra loro parlano i loro avvocati o i loro agenti, ma lì devono inscenare che l'amore è eterno. Vi è dato un elemento rafforzativo, l'elemento rafforzativo è fortissimo, è come aggiungere, che ne so, quegli eccipienti nella cucina cinese che ti danno a tutto quel sapore terribile di arrostino, che però ti fa piacere anche i gatti bolliti che danno, o i topi in salmì che danno nei ristoranti cinesi, è la famiglia Anania. Viene evocata improvvisamente una sorta di reperto archeologico che sembra tolto da un film del neorealismo in cui andavano a fare queste inchieste tra i baraccati e trovano queste famiglie sdentate, piene di figli, e si spiegano il perché fanno tanti figli. La famiglia Anania è una sorta di recupero antropologico, come ho già detto, una famiglia calabrese con 16 figli. Vengono tutti lì sul palco, il padre, la madre, fieri, tronfi, lei la grande fattrice dalle 16 gravidanze, non paghi del fatto che il Papa ha già detto non conigliate, non accoppiatevi come conigli. La famiglia più coniglia d'Italia viene messa lì a glorificare e a dare un background credibile alla coppia Albano-Romina. La famiglia Anania da Catanzaro. Aurelio e Rita. E i loro bimbi. Bruno, 4 anni, Domitilla, 3 anni e Paola, 1 anno. Oh, l'applauso fortissimo. Buonasera. Buonasera. E come mai avete invitato questa famiglia, la famiglia Anania? Perché è la famiglia più numerosa d'Italia. Infatti non sono solo questi due figli, ma c'è anche Marta, 20 anni, Priscilla, 18, Luca 17, Maria 16, Giacomo 15, Lucia 14. Sai che figata, ragazzi, 16 figli, pensa che dramma. Però in nome del fatto non lo fo per amor mio, per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio, sono nuovamente lì, ma è sempre dietro, nel sottofondo, l'idea che la coppia da santificare è Albano e Romina. Sugli Anania hai qualcosa da dire, Giuseppe? Sì, dare figli alla patria, come vedi siamo sempre in anni lontanissimi, in un'era lontana da questa, ma che torna sempre attuale, come se il tempo si fosse fermato, cristallizzato. Quindi sbaglio oggi chi dice è stato un festival democristiano, no, è stato un festival di gloria dei Giolittiano, tempi, del Giolittiano, tempo del... ma no, è un Ducesco, dai, questa è roba dei tempi del Duce. Vogliamo attualizzare Ducesco, sì, ma dai, date figli alla patria. Date figli alla patria, la patria è langue, quindi date figli alla patria. E ora, la prima cosa che uno pensa, dice... Ma la televisione a casa vostra non ce l'avete, no? No, ma non è questo. Innanzitutto, grazie di aver accettato il nostro invito. Ah, vedo che sei microfonato, perfetto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Io vorrei dire una cosa. Io ringrazio per l'accoglienza che ci avete fatto, ma questo applauso lo facciamo al Signore, perché questa è un'opera di Dio, non è opera umana. Scopriamo che il signor Anania è un padre putativo, come San Giuseppe. È stato Dio, non è stato manco lui. La battutina di Carlo Conti, anche sta battuta anni 50, come se l'alternativa alla trombata fosse la televisione. La televisione è l'alternativa allo Xanax, no al fare del buon sesso selvaggio in famiglia. Certo, per questo grande tributo, l'applauso alla copula feconda. Cioè, neanche Marco Ferreri avrebbe concepito una storia simile, questi 16 figli strascinati appunto sul palco, e poi l'accento meridionale, appunto, ancora quello, il segno dell'inadeguatezza che va vezzeggiata, no? questi meridionali che si riproducono e poi comunque danno figli alla patria e alle fabbriche, eventualmente alle fabbriche, all'emigrazione al nord. Sembra quasi una rilettura postuma di Ginger e Fred, è un esempio macroscopico di quella televisione che mostrifica qualunque espressione umana. In realtà i 16 Anania più 2, 18 Anania, in realtà è una mostrificazione, è un'esagerazione, è un'esornazione, è uno schiaffo alle difficoltà delle persone che in realtà oggi faticosamente cercano, provano a sostenere una famiglia. Sì, poi Conti è perfetto in questo, che quest'aria da esecutore testamentario passato da un solarium, no? Che appunto fa queste esequie, è perfetto in questo. Sì, è vero, sembra un piccolo avvocaticchio di paese, con quel gileino fuori posto, un gilet da tale messo su una giacchettina nera da geometra, una cosa orribile. Beh, fermiamoci un attimo, traffico, riprendiamo tra poco con l'esegesi di Albano e Romina, sin dalle origini. Melog, cronache meridiane. Non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Romina Power contro le scie chimiche. Il suo nuovo singolo, dal titolo profetico Un messaggio, è un inno ambientalista e pacifista, dove fra i mali del mondo vengono citate anche le strisce che segnano il passaggio di un aereo e su cui si sprecano le teorie complottiste. Questa vena di Romina rivista e rivisitata dalla marijuana libera, dal trionfo comunque del libero amore, della sua fase hippie alla sua fase moderna che combatte le scie chimiche, quando in realtà l'unica scia chimica percepibile nella prima serata di Sanremo era quella che lasciavano i due camminando sul palco del teatro Ariston. Allora, vediamo di capire con Giuseppe Sanzonna, però, alle spalle di questa coppia riesumata, riportata e riassemblata in una sorta di Frankenstein orripilante sul palco dell'Ariston, cosa si potrebbe nascondere? Innanzitutto cerchiamo di analizzare la fenomenologia di Albano e Romina. Nasce lontano. Sì, Romina appunto figlia di Linda Christian e Tyrone Power, quindi veniva da una Hollywood straordinaria, una sorta di iperuraneo di Olimpo, passeggia in una Roma invece lisergica di Mario Schifano e dell'Anita Pallenberg che avrebbe potuto essere di quel mondo là se non fosse stata fulminata e stroncata sulla via di Cellino San Marco in un primo film, in un primo incontro con questo uomo del studio che in fondo ha rappresentato il ragazzo meridionale appunto robusto e virile e che riesce a strappare la donna di un mondo candido e superiore, partorita dall'Olimpo di Hollywood, certo. Figlia di Tyrone Power, certo, il massimo nei sogni erotici impronunciabili delle signore che realmente figliavano come conigli uno dietro l'altro negli anni del boom. Guarda, tu non ci crederai, però noi adesso facciamo i pulitini raffinati raffinati, ci fa schifo, ironizziamo dall'alto della nostra spocchia, ma il Festival di Sanremo di ieri ha avuto un successo clamoroso, ha fatto ascolti boom, 3 punti in percentuale più, 1 milione in più rispetto all'anno scorso, quindi comunque vedi, il direttore di Rai 1 sta mandando, ha mandato tweet, che bello, ascolti boom, una figata, vuol dire che l'Italia questo gli sta bene, siamo certo. Noi che dobbiamo emigrare, andarcene, certo. Non quelli che apprezzano Sanremo. Meravigliato di vedermi a quest'ora vestita così. Se non sentissi la vostra voce non ci crederei. E invece sono proprio io. Forse è diversa da quella che avete conosciuto finora, perché adesso posso guardarvi negli occhi serenamente, in un modo diverso, lontano da tutti. Un giorno io vi ho fatto del male, ma ora potete perdonarmi. Oggi stesso dovrete tornare a Vienna per tenere un concerto dalla principessa Vorokin. Ho chiesto scusa anche a lei. Ma no, non dovevate chiedere scusa a nessuno. Franz, voi siete un artista e avrete un grande successo. Franz sarebbe sì, sì. Franz Schubert Albano, l'assoluta mancanza di pudore, no? Però meravigliosa in questo, come tutto ciò che è licenzioso, sfrenato, è la semplice assonanza legata agli occhiali, erano gli anni 70, e Bassettone sì, associa Albano a Schubert, quindi alla grandezza cosmica di un cantante e alla grandezza di una grande ugola come quella di Albano. Quindi abbiamo questo film in cui si incontrano, la cosa meravigliosa è che sono tutti e due doppiati, due cantanti completamente doppiati con voci non loro, con non loro, perché lui ancora parlava troppo pugliese, lei parla troppo americano, come adesso dopo 60 anni ancora uguali, però appunto tutto va emendato, purgato e portato in una Vienna metafisica assente, però molto presente in questi questo musicali. Ha consolidato molto il mito, l'ha portato fuori dal tempo storico, erano gli anni 70, gli anni in cui si cominciava a parlare di terrorismo, in cui c'era una contrapposizione feroce, in cui il paese era diviso e lacerato dal terrore comunque e della fine delle fonti energetiche, e loro erano Schubert e la sua donna. Ma questo, allora, ieri l'ha detto anche Romina a Sanremo, cioè l'importante è sospendere il tempo. Sanremo deve sospendere il tempo, è come Gianni Morandi che ti sospende in non tempo del pane buono, del forno, di quell'Italia là, ecco. Si è addormentato. È bello mio figlio, vero? Sì, mio figlio è bello. Vogliamo dire nostro figlio? Nostro figlio è proprio bello. A proposito, ingegnere, ti sei comportato bene a scuola? Sono un alunno modello. E come va l'inglese? Questi due sussurranti sono sempre Albano e Romina. Sempre con voci non loro, appunto qui ricondotto a un ruolo più calzante dell'ingegnere, appunto con occhiali. La cosa meravigliosa che di questa sequenza... Qual era la storia? Pensando a te era il film. Sì, pensando a te, ma la cosa meravigliosa della sequenza è che c'è un Pinocchio gigantesco, grosso come la balena di Pinocchio, che bascula su questo figlio, incombe su questo figlio, anche questo cigolare sospeso su questo bambino. Per trapassarlo con il naso. Sì, può essere, insomma, si allude sicuramente a quello, alla simbologia eisteniana di grande cinema sovietico, è sicuramente quella che sottende alla sequenza. E qual era la storia rappresentata? Le storie sono sempre quelle minime e quelle di un amore contrastato inizialmente, che poi come il classico del musicale, la classica struttura del quindi musicale. Diciamo l'intento geniale di Conti in questa fase era dimostrare l'indimostrabile, che ciò che aveva una premessa così profonda, così metafisica, così lontana, così irraggiungibile, cioè l'amore al di là delle barriere sociali, al di là della predestinazione d'origine, il contadino pugliese che sposa la figlia di Hollywood, non può finire con due persone separate, non per forza essere riunite in quell'orrendo bacio, bacio, bacio. Sì. Guarda che la metà degli italiani l'ha guardato. Sì. 49-34% di share, la metà degli italiani ha visto quello che non abbiamo visto, non l'abbiamo visto per riderci questa mattina, ma gli altri l'hanno visto per essere seri. E poi Albano ha detto anche, sì, mi ha fatto cantare spesso nei tribunali in questi anni, quindi c'è anche un'allusione, però comunque tutto si ricompone, anche se il ribrezzo latente viene ricomposto in questo grande abbraccio e grande applauso, felicità, felicità, felicità. Io ricordo molto bene la prima volta che sono venuto a Sanremo, era il 1968, Pippo Baudo era il suo primo festival e io era il mio primo festival, il grande Pippo. E ricordo che mi sono trovato da un giorno all'altro a fianco a Louis Armstrong, al grande Adriano Celentano, ma tanti altri, cioè Timmy Juro, Bob Gentry. Ho detto, ma ho sbagliato indirizzo oppure è proprio Sanremo? Quella è stata la mia prima... L'inizio, cioè, io mi fermo a Celentano, ma gli altri chi sono? Comunque, dalla grande Pippa a grande Pippo. Sì, sì. Il grande fantasma evocato è stato Pippo Baudo, che ha avuto anche un riconoscimento, ha già dichiarato alle agenzie. Il prossimo Sanremo, io compirò 80 anni, fatemelo condurre, come diciamo quegli antichi eroi che dicono mettetemi ancora l'elmo, mettetemi su una nave fiammeggiante, mandatemi al largo, morirò come un combattente vichingo. Pippo Vado vuol condurre un altro Sanremo. Un particolare molto squallido che hanno dato un premio ad Albano e Romina. Gli hanno dato due dischi di plastica, perché finiti i metalli preziosi, oro, argento, bronzo, platino, rimaneva soltanto il disco di plastica. Due dischi trasparenti di plastica, terribili. Sembrano quelle tavolette da toilette creative che si vendono nei negozi cinesi. Ma a forza di toccarlo tante mani, dalla costumista all'attrezzista, al sottoinserviente, a Conti, alle mani sudaticce di Albano, era pieno di ditate. Faceva schifo, sembrava allo schermo il display di uno smartphone. E quando Albano l'ha messo come aureola all'interno, dietro la sua capoccia, poi dietro la capoccia di Romina, è stato un momento metafisico in cui si sono dichiarati essi stessi autosantificati con l'aureola del disco di plastica con le ditate unte. Il trionfo dell'organico, se vuoi, l'organico che viene esibito. E poi in fondo, tornando alla chiusa, Carlo Conti, tu parlavi di Baudo, è in fondo la controfigura, cioè ancora più, cioè in realtà è un affettivo, però proseguirà, insomma, il testimone lasciato da Baudo. Forse quelle ditate unte erano altro che un messaggio subliminale, una sorta di promozione all'olio di oliva pugliese che produce Albano alla sua tenuta. Sì, sì. Grazie Sansonna, grazie Albano e Romina, ci è dato un momento stupendo ieri sera, se no oggi non avremmo avuto altri argomenti.